Amici, il fiero Marte, che del Giordan finora turbo la pace, e rosseggiar felonde, si propaga improvviso a queste sponde. Ah, che dici, o signor, così sorpresi? Assalite così? Dunque potea così presto avanzarsi di barbari nemici il furor cieco? Che paventi, idoe mio, Rinaldo e teco. Già in mezzo all'armi, col nome tuo sul labbro, con l'immagine tua scolpita in petto, l'armate squadre a debellarmi affretto.